la nave, Jacopo, non avrebbe mai dovuto spingersi fin qua. Mai si sarebbe dovuto tagliare quel filo con cui sono stati fatti i remi che servirono a degli eroi per rapire il vello d'oro. La mia padrona, Medea, non si sarebbe innamorata di Giasone, né vivrebbe ora in questa terra esiliata, anche se bene accetta col marito e i figli, assecondando Giasone in ogni sua richiesta. C'è grande amore quando la moglie non avversa il marito. Ora invece tutto è ostile e i sentimenti ne soffrono. E di Giasone la colpa. Che cosa ha fatto? Egli ha tradito Medea e i suoi figli, sposando la figlia di Creonte, re di questa terra. La povera Medea, offesa, chiede rispetto dei giuramenti e delle sacre promesse. Perduto, se aggiungiamo una nuova disgrazia all'altra, non ancora assorbita. Comunque tu, sta zitto. La padrona non deve sapere che Giasone possa morire. No, è lui che mi comanda, è lui il mio padrone. Certo, è cattiva verso i suoi cari. Ma chi non lo è? Ora cominci a capire che siano più se stessi nel prossimo. Chi per un motivo vano, chi per danaro. La verità è che Giasone non ama più i suoi figli, perché pensa al nuovo matrimonio. Tieni i figli lontani dalla madre. I suoi occhi non mi dicono niente di buono. Medea non si calmerà se prima non si sarà abbattuta come una saetta contro qualcuno, sperando che lo faccia contro i nemici e non contro. Voglio, direi di soffrire. Che cosa riuscirà a fare? Il suo cuore infuriato, il suo orgoglio ferito, quale violenza dovremo sopportare? Soffrendo, sono disperata. Pensa ai tuoi bambini. Maledetti, figli di una madre maledetta. Voi dovreste morire con vostro padre e sprofondare con tutta la casa. Ma che cosa dici? Loro non hanno colpa. Il padre è un pericolo. Il figlio è lontano dalla nostra faccia. Ora che sarà più facile guardare il mare o morire. A te. Quando torno. E che odi il tuo sposo, Medea. A te io impongo di andare via. Esule da questa terra. Insieme ai tuoi figli, immediatamente. Io stesso sono il garante di questo comando. E non andrò via prima di vederti uscire dai confini di questo regno. Sono martoriata. Non vivo più. Tutti riescono a sistemare le proprie cose. Solo per me è difficile abbandonare quest'isola di dolore. Anche se così distrutta, io ti chiedo, Creonte, perché mi cacci dalla tua terra? Io ti tengo. Questa è la mia ragione. Ho paura che tu faccia del male a me. E questi timori sono motivati per me. Primo perché sei inclina da valerti di ogni sorta di maleficio. Poi perché so, privata come sei dell'amore del tuo uomo. E in ultimo, si dice che tu minacci di distruggermi perché perdessi il matrimonio e di fare del male alla sposa e alla sposa. Quindi intervengo subito perché ciò non accade. Preferisco farmi odiare da te, piuttosto che intenerirmi e piangere amaramente dopo. Non è la prima volta che la mia fama mi ha creato problemi danneggiandomi. Un padre saggio non dovrebbe mai far studiare troppo i propri figli. Questi verrebbero subito accusati di presunzione e rivelando verità sconvenienti darebbero fastidio ai più. Così ora succede a me. Tutti sanno delle mie capacità e mi odiano, mi invidiano, mi vedono come una nemica. Eppure non sono poi così saggio. Tu hai paura di me? Pensi che io possa farti del male? Ma non devi temere. Non sono in condizione di fare del male ad Ebrei. E poi tu non mi hai offesa. Hai solo fatto sposare tua figlia che ti piaceva. Io odio mio marito, io uomo. Tu hai fatto quello che dovevi. Non sono gelosa della tua felicità. Celebro l'uno le nozze, siate felici, ma lasciatemi stare qua, in questa terra. Starò zitta, soffia il più forte. Riesci a combattere l'uomo e la donna irosa, non la persona furba che battono dentro. Ora fuori, al più presto, senza dire una parola! Ormai ho deciso e non puoi far niente per restare qui, perché tu mi sei ostile! No! Sono i tuoi piedi! Onoro la nuova sposa! È inutile, non mi convincerai! Mi caccerai senza neanche sentire le mie preghiere! Amo la mia casa, non te! In questo momento penso alla mia terra e la rimpiango. Anche per me è la cosa più cara dopo i figli. L'amore è una grande disgrazia per gli uomini. Non è sempre così. Voi mi ascoltate? Io spero che il colpevole di tutti i mali non vi sfugga. Va via, striscia! Sei fuori di te, liberami delle tue pene. Noi peniamo! E non vogliamo sentire le pene degli altri! Ti caccerò con la forza! Ti prego, Creonte, non farmi questo! Vuoi darmi fastidio, dunque? No, io me ne andrò! Ma non volevo questo da te! Vattene! Lascia questa terra! Lasciami qui ancora qualche giorno! Devo sapere prima dove andare! Come provvederò ai miei figli! Sono sola, ricordi? Non c'è un padre che pensi a loro! Io ti chiedo pietà. Vuoi capirmi? Anche tu sei padre di figli! io non sono un tiranno. E spesso per avere pietà mi sono rovinato. Anche se ora sbaglio, Medea, ma lo stesso ti concederò quello che chiedi, ma sei sull'avviso. Se la luce del prossimo giorno ti coglierà entro i confini di questa terra con i tuoi figli, morrai, lo giuro. Ora, se proprio vuoi, puoi fermarti qui, ma per un solo giorno. Solo così non potrai attuare nessuno di quei disegni orribili che mi fanno terrore. Agli uomini vengono idee malvagie e la fede nel Dio non è più sicura.

non ha ingannato solo me, ma anche il mio corpo. Ma se devo rivolgermi a te come ad un amico, così farò, anche se non posso sperare tanto. Dalle mie domande potrai ancora di più capire la tua malvagità. Dove posso andare? Ora, a casa di mio padre, che ha abbandonato per seguirmi, o dal figlio di Peglia, senz'altro accoglierebbero bene Medea, la donna che uccise il loro padre. Così, tesore, per amarti, ho tradito i miei cari, ho fatto del male a chi non dovevo. In cambio, tu mi hai fatta felice. Almeno così pensano molte donne. Ed io, felice, con un marito straordinario e fedele, sono esiliata da questa terra, senza amici, abbandonata, sola, con dei figli abbandonati, soli. Che vergogna per un padre che infine è Dio che ti salvai. Vado per il mondo a vendicare quei pezzetti. Io mi domando, ma perché gli uomini hanno trovato il modo per conoscere se l'oro è falso e non quello per smascherare le loro ipocrisie? Quando c'è discordia tra amanti, l'ira diventa terribile e difficile da domare. Anch'io parlerò con perizia se voglio sfuggire alla tua temerarietà, proprio come un prudente timoniere di nave che nella tempesta ammaina la vela più alta. Visto dei tanti momenti, ti dirò che l'unica responsabile della salvezza della mia spedizione è l'amore. La tua intelligenza è riuscita di ammettere che le due imperatori che colpiti mi hai salvato. Comunque, io non approfondirò questo argomento, perché qualunque sia stata la motivazione, il fatto importante è che tu ti hai aiutato. Ed è certo che in caso io ti dimostrerò che tu hai aiutato più di quanto hai dato. Per prima cosa, vieni in terra greca e non in un paese barbaro, conosci le leggi e te navali senza dover ricorrere alla violenza. Sei diventata famosa per le magie. Se tu vivessi fuori dalla città, nessuno parlerebbe di te. Rinunzierei a tutte le ricchezze del mondo a solo al meglio di Orfeo, con di avere la fama. E questo è tutto, visto che ti hai portato tu a competere in discorsi. Per quanto mi hai detto circa le nozze regali, sai che io sono stato prima di tutto abile e accorto, e soprattutto amico per te e i miei figli. E smettila! Reduce della terra di Olco, mi sono tirato dietro sciagure irreparabili. Cosa avrei potuto fare di meglio? Diventato esule, solo sposare la figlia di un re. E non l'ho fatto come tutti lamenti perché io ti amo il tuo letto, ma perché mi fossi innamorato di un'altra donna e volessi avere altri figli. Mi bastano quelli che ho. Ho fatto tutto questo perché potessimo vivere in armonia, senza privazioni. Sappiamo come gli amici ti abbandonino a piena cara di disgrazia. E poi volevo allevare i miei figli, quelli di decoro degno della mia casa, e fare degli altri, fratelli a quelli nati da te, per unirli nella stessa condizione, congiungere le due stirpi ed essere felici. Tu che bisogna hai per tuoi figli? Invece a me servono per giocare a quelli giallo che hai i tuoi figli. Se non fossi gelosa mi troveresti. Siete così voi donne. Salvate il letto, pensate di avere tutto. C'è qualcosa di più per minacciarlo, anche la cosa più bella, più ostile. Sarebbe meglio che gli uomini generassero senza le donne da qualche altra parte e che il genere femminile non esistesse. Soltanto così non ci sarebbero mali per gli uomini. Io sono diversa dagli altri. Delle persone ingiuste, pronte a parlare, meritano la massima pena. Queste persone confidano nella loro abilità per nascondere con le parole ogni tipo di crudeltà. Ma non fanno bene i conti. Giù la maschera! Non venire da me come onesto e loquace

in questo tuo devo il mio orgoglio. Ti ho tirato su in vano, come in vano per voi ho capito fatiche dormenti, in vano ho sopportato le pene del parto. Ieri tutte le mie speranze erano in voi, che mi avreste assistita nella vecchiaia, che mi avreste composta con le vostre mani una volta finita. Cose che sognano le donne. Oggi invece quei sogni si sono dissolti. Senza di voi la mia vita sarà triste e dolorosa. E voi, conducendo un'altra vita, con i vostri occhi non riconoscerete più vostra madre. Vedo i loro occhi sopra di me, i loro sorrisi. Che sto facendo? Ma se solo guarderò le loro facce serene, mi mancherà il coraggio. Addio, vendetta! Via da questa terra con i miei figli! Ma perché? Per il desiderio di vendicarmi del padre devo soffrire due volte tanto! Non lo faccio! Addio, decisione! Ma cosa dirò? Sarei lo zimbello di tutti se non punissi i miei nemici! Devo usare la mia abilità! Ho ancora dolci pensieri dentro di me! Che i miei figli restino nel palazzo! Chi non ce la fa ad assistere al mio sacrificio si allontani! Ora non fermerò la mia mano! Oh, il cuore mi dice di non farlo, di risparmiare i miei figli infelice! In esilio con me alleverebbero le mie pene! Ma cosa dico? Per voce la morte sarà per mia mano. Io le messi al fondo, io li ucciderò. È giusto così, è necessario. Tutto è scritto nel destino, non si sfugge, non si sfugge. Adesso la sposa ha già la corona sul capo. Già è avvolta nel mantello. Sta morendo. Io lo so. Questo è il triste vortice da cui sono ingoiata. È ancora più triste la sorte dei miei bambini. Figli! Carissimi! State spiatevi le gioie terrene della morte di vostro padre. So il delitto che sto per compiere, ma la passione, madre di tanti mali, è più forte di qualunque intendimento. Sono soltanto io a dire che gli uomini che non hanno generato sono più felici di quelli che hanno i figli. I primi, non sapendo se la prole è cosa buona o malvagia, privi di questa esperienza, evitano molti dolori. Ma quelli che hanno in casa teneri giovinetti, io li vedo continuamente provati dalle preoccupazioni e dopo tutte queste pene non sanno si hanno tribolato per dei figli buoni o cattivi. E si dia anche il caso che i figli abbiano trovato di chi vive, che siano cresciuti come devono. Ma se il destino è già scritto, ecco che la morte se li porta via. A che serve allora penare tanto per i figli? La sorte più cruda se li porta via. Quella è la voce. Tu hai compiuto ingiustamente un crimine così orrendo. Fuggi su una nave, su un carro.

del misero desistente. Avevo rinvenuto dal male. Ora padre e figlia sono l'uno accanto all'altra morti insieme. Ma ecco una storia che farà piangere tutti. E te lo padre. Tu sola sai come potrai sfuggire la punizione. Cose così dette. Non sono più di niente. Ora non posso dire che chi scudora da me dice di avere saggezza, intelletto. Merita la vita più grande. Non esiste tra gli uomini uno che può dirsi felice. Con la ricchezza può dirsi più fortunato di un altro. La felice no. Male, i cari morti, la cagna che punirò con la morte! Perché va arrivare a me e ai figli che ho ucciso? Rinuncia! Se vuoi qualcosa da me parla, ma non mi toccherai con la mano! Il sole è la mia difesa! Thank you. Dio si sbattiva agli uomini e a me. Hai usato tuo figlio e i tuoi figli per colpire me e annientarmi. E dopo aver commesso questa atrocità, riesci ancora a guardare il cielo, la terra. Devi morire! Sei stata una grande sventura per tuo padre che hai tradito e per la terra che ti ha nutrito. Ora, un destino avverso ti ha scagliato contro di me. Hai voluto sposarmi, mi hai dato dei figli e me li hai uccisi per gelosia d'un letto nuziale. Non fai donna di questa terra che avrebbe fatto tanto, e io ho voluto sposare te, la donna che mi sarebbe diventata nemica e odiosa, non donna ma bestia, ancora più selvaggia della terra, più selvaggia. Latte e infame, sei lorda del sangue dei tuoi figli. A me non resta che il pianto, a me che non ho più donna da amare, né figli con cui stare. Fatto quello che dovevo. Ti ho distrutto colpendo il tuo cuore. Anche tu stai soffrendo, hai la morte nel cuore. Sta bene anche il dolore, se sono riuscita a farti soffrire. Poveri figli, quale cattiva madre mi è toccata. Poveri figli, morti per crudeltà paterna. Sarà così, ma non sono morti per mia mano. Tu li hai uccisi, tradendo. E tu per un letto abbandonato li hai ammazzati. Odimi pure. Di parlare con quella voce amara che ho. E io detesto la tua. Non è difficile congedarsi. Come? Io non so come fare. Lo vorrei intanto. La giustizia porrà fine alla tua vita. Giasone, non c'è Dio che t'ascolti. Basta spregevole che ti vorrei fra i piccoli. Ma ancora la forza di piangermi e di chiamare tutti a testimoni che tu, dopo averne fatto strage, mi finisci di restare con le mie mani. Forse io non l'avessi mai, mai generati. Proviamo ai visti poi, fuggiti, bene. Dai, mio di mente, è fatta. Sul nostro conto e su quello degli uomini.